Fare rap è cosa facile, ma è metterci il cuore che poi è difficile. Avere veramente un motivo per cantare. Io senza il rap potrei morire. Vi devo sentire originale. Sto per sfornare una canzone per far tremare tutti i Mozart all'ascolto. Senza un orgasmo, siamo vittime d'amore e abbiamo infilato nel cuore una moneta, un foglietto da 500 euro che deride il nostro cuore e lo fa sentire meno serio. Ma in questo mondo che è in latitanza non si presenta alla mia porta e poi chiede il conto senza pensare che dietro qua c'è un uomo che è un tuono, parte di Dio, lo comanda, gli chiede di giustizia. Fai giustizia per me, poi il diavolo entra e vuole una parte di me, di tutto il mio creato, mi dà energia, sospirato. I miei guanti per pulirti, renderti una principessa da un cartone e una piazza alla mia casa. Il mondo t'ha abbandonato, la tristezza, il volto di una ragazza in lacrime, senza da mangiare, senza bere, e queste sere le dovrà dormire sento un ponte in un cartone. Che Dio disobbedisca e inverta questo mondo, e che il diavolo tenti ogni uomo ricco fino al profondo, fino a fargli marcire ogni cicatrice dove